Imparo lo Zohar con Rabbi Michael ben Pesach Portnar. Parte terza, lezione 30. L'ultima volta abbiamo finito con la lettera Shin, che andò dal creatore, la Binah, e pensò che lei poteva essere considerata per creare il mondo attraverso di lei. Lui ha detto poco prima della fine della lezione precedente che la lettera Shin è una nuova fine. Ci sono due estremità. Una è la Tav, che corrisponde alla Sfirah, guarda sempre agli Sfirot, quindi non ti perderai, con Malkut de Malkut, dove nessuna luce può venire. Abbiamo imparato un po' sulla qualità della Tav. La lettera Shin è effettivamente Yesod della Malkut, e ciò è molto diverso. I 9 Sfirot superiori appartengono alla proprietà del Creatore. La luce in esse può entrare, in Malkut de Malkut no. La lettera Shin è Yesod della Malkut e quella è la nuova fine, il fondamento. Allo stesso modo con noi dobbiamo cercare Yesod di Malkut in noi stessi. Quello è il luogo dove ogni cosa può essere costruita, dove gli alberi possono crescere dall'interno. Ciò significa che possiamo ricevere la luce, sulla quale la vita può essere costruita, quando ci attacchiamo alla Shin e non alla Tav. Quando uno si attacca sulla Tav, arrivano le guerre. La Seconda Guerra Mondiale fu assolutamente non un risultato, perché non dobbiamo conoscere politicamente, ma le persone erano tutte fondate sulla Tav. Yehuda Ashlag lo aveva già previsto nel 1934. Egli ha predicato al mondo intero ciò che sarebbe accaduto anche con gli ebrei. Ha solo detto quello che sarebbe accaduto e nessuno lo ha ascoltato. Nel nostro tempo è esattamente lo stesso. Si dice che quello è cosa devi fare, se non lo fai non funzionerà in un modo diverso. E quando le persone non ascoltano, poi di nuovo non si risolverà con le persone. Troppo male. È un peccato che una creatura sia persa. Yehuda Ashlag, di cui apprendiamo il commento, vide che giù si ruppero. Ricorda questo molto bene, che sopra, con il creatore, nessuna decisione sarà presa senza che sia stata rivelata in anticipo ad un virtuoso di quella generazione su cui qualcosa doveva accadere. Non viene mai nulla da sopra, diciamo la miseria. La miseria non viene mai da sopra, ma la gente chiede la miseria e allora da sopra è presa la decisione di colpire, perché sotto non è basato sulla vita. Mai sarà che colpirà, mai da sopra ci sarà punizione senza darla ad un grande di una generazione. Guarda Noè con l'arca. È dato in ogni generazione. La strada per la salvezza fu data anche nella generazione prima della guerra. Non la volevano. Ognuno era basato sulla Tav. Tutti volevano combattere senza tenere conto dell'altro. Gli ebrei volevano il loro stato indipendente. I tedeschi volevano che il mondo intero fosse una sola grande Germania. Tutti volevano stare un po' meglio, solo per se stessi. Erano tutti basati su Tav e su Tav mai può venire la luce. Perché l'umanità nel suo insieme, ovviamente c'erano sempre personalità, individui, ma la stragrande maggioranza delle persone negli anni 30 erano tutte basate sulla Tav, e lì non può esserci misericordia. Pertanto non c'era altra possibilità di chiamare una certa forza qui sulla terra per rompere ogni cosa. Quello che succedeva dalla Germania veniva da sopra. Perché? Tutti erano basati su Tav, quindi chiamarono il distruttore. Questo nel mezzo, ma se sei attaccato a Shin, sul luogo su cui puoi costruire qualcosa, se sei attaccato alla Shin puoi costruire ogni cosa, te stesso e l'umanità. Lui ce lo dirà. Chiaro? In questo modo non ci perderemo nei libri storici scritti da persone che loro stessi erano basati sulla Tav. Siamo una nuova generazione, dopo la guerra che noi non sappiamo. Inoltre nemmeno io, sono del 47, subito dopo la guerra. La differenza che sperimento tra la generazione della guerra e me, come giorno e notte, è la generazione dopo la guerra. Capisci cosa intendo? Dall'esterno lo stesso, ma stavano sulla Tav. Mentre noi, dopo che la grazia della guerra venne dall'alto, dove siamo andati più in profondità, l'umanità cerca di attaccarsi a Yesod di Malkut, da prove ed errori. Non l'umanità stessa, l'umanità non è nello spirituale, ma è un simbolo dello spirituale. Le persone provano a essere gentili l'uno con l'altro, non a causa del creatore, ma è più bello, è anche uno sviluppo. Continuiamo, questo era in mezzo. Tav è Malkut e la Shin è anche Malkut. Kuf, Resh, Shin e Tav è Malkut. Ci ha detto che la nuova fine di ogni cosa, quella vive anche dentro di noi, è Shin. Shin ha tre teste. Guarda la lettera Shin. In termini di forma ha anche tre teste. Tre gambi e tre teste in cima. Lui dice che quelle tre teste provengono da Chesed, Gvurah e Tiferet, da Binah. Cosa significa? Il corpo, Parzuf, di Malkut, è costruito da Binah. È costruito dalla mamma e ha una relazione con Zeirampin. Quindi il suo corpo, Parzuf, la costruzione, viene attraverso i raggi dei sette sfirot inferiori di Binah, che allude alle tre teste di Shin. Se la luce della Binah splende sulla Malkut, e Malkut in questo caso è Shin, la nuova fine allora può essere costruita, quindi puoi costruire qualcosa. Proprio come un deserto dove non c'è acqua. Puoi fare qualcosa nel deserto? Niente. Binah è, in altre parole, acqua in relazione a. Mettiamola in questo modo, con un esempio. La lettera Tav è come il deserto senza acqua, fino all'arrivo del Mashiach. E poiché la Shin riceve Chassadim da Binah, è come se nel deserto, come a Malkut, che non ha nulla di per sé, riceve solo ciò che le viene dato dall'alto. L'acqua viene da sopra sulla terra del deserto. Perché per mezzo di questa radiazione di Binah diventa il Kli, serbatoio, per ricevere 100 benedizioni da Zeirampin. Per Yesod la luce può splendere, dopo Yesod non più. Malkut de Malkut no. Naturalmente quella Tav, Malkut de Malkut, il vero sé è la vera natura, la vera fine di natura. Non possiamo negarlo. Il più profondo punto dell'uomo dove avrà luogo il completamento, la Tav, Malkut de Malkut. La via per quel compimento viene da Yesod di Malkut. Il modo all'umanità è dato dall'alto nella Torah, è quello di basare la propria fine su Yesod della Malkut. Non Malkut de Malkut, ma per alzare un po' più in alto. Bene, non è completa. È perfezione, ma non fino all'ultimo punto. In quel modo anche noi purifichiamo la Malkut de Malkut. Questo è il modo che ci è stato dato dall'alto. Quando il Mashiach viene dopo 6.000 anni di correzione, allora quella Malkut de Malkut, la Tav, è anche illuminata dalla luce Chayach e Yekidach. E così la morte, dopo molte correzioni, cesserà di esistere. Assolutamente. Perché? La morte viene solo perché ci sono alcuni desideri tra Tav e Yesod di Malkut. Perché abbiamo il sentimento della morte? Vedremo che Adam ha ovviamente contribuito. Impareremo di cosa si tratta, ma ci basiamo solo su quella penultima superiore, su Yesod di Malkut, quel piccolo pezzo che è tra il vero me e il me buono di Yesod di Malkut, quel pezzo, quei bassi desideri dalla Shin al Tav, quelli sono come se non fossero ancora illuminati. C'è una forma di oscurità. Ogni forma di oscurità è morte. Ecco perché è anche scritto che quando arriverà il Mashiach, la notte brillerà come il giorno. Non quello che sarebbe fuori. È bello dormire quando il sole splende di notte? Non quello. Tutto è illuminato e l'oscurità che tutti noi sperimentiamo, che inizia di notte, e specialmente noi sperimentiamo di notte, che rimane fino al Gmar Tikkun. Non pensare che sarai redento da quello, ma da quello che facciamo corretto. Ecco perché è importante imparare di sera e di notte. Imparare di sera e di notte è particolarmente importante. Lo guadagni e sperimenti chiaramente che in te arriva un filo di grazia durante il giorno. Tu senti quello dall'alto perché lo hai fatto di notte. Di notte, dall'apprendimento di mezzanotte dell'universo, dalle 2 alle 3, se impari in quel tempo, preparerai i kelim, così durante il giorno ci sarà la stanza per ricevere quella grazia. Dove altro hai la stanza per ricevere la misericordia? Sì, voglio misericordia, ma dove hai la stanza per ricevere quella grazia? Quindi, se impari di notte, non devi andare ogni notte se non hai ancora la forza. Dalle 3 in punto è dato alle persone ed è scritto per imparare giorno e notte. Impara di notte. Il cristianesimo dice veglia, che è esattamente lo stesso. È così che va. Se ti svegli di notte, prepari i kelim per sperimentare la grazia durante il giorno, altrimenti non abbiamo posto per l'esperienza della grazia. Così, perché attraverso questa radiazione da Binah diventa Malkut un cli destinatario per ricevere 100 benedizioni da Zerampin. Benedizioni che ricevi da Zerampin, perché Zerampin è Chesed. Il potere di Zerampin è Chesed. Perché 100? 100 è 10 sfirot di 10. Segretamente, dal versetto, la donna entra in un patto solo con lui che fa il suo cli. È così che è scritto, la donna può solo fare un patto con lui, quella forza che fa il cli con lei. Allo stesso modo viene dallo spirituale. È un versetto che sta dando come prova. È ancora difficile per me dirlo. Perché la Malkut è diventata così un cli, serbatoio, ricevitore, per ricevere 100 benedizioni da Yesod, dal Zerampin. Quindi, se vieni da Tav a Shin, Shin è anche Malkut, ma Yesod di Malkut, allora c'è luce di Binah che irradierà il posto di Yesod di Malkut. Yesod di Malkut diventa quindi il cli per ricevere luce. Quando facciamo qualcosa come questo nel nostro mondo, ci rendiamo anche noi ricettivi alla luce. Ma il nostro problema è che non lo basiamo come dovrebbe. Ci basiamo su Malkut de Malkut, e nessun umano potrebbe mai ricevere in quella Malkut. Adam non poteva, né gli altri. Se impari e sperimenti quel passo dopo passo, allora farai ogni cosa per non basarti su quella Tav, perché non è possibile alcuna salvezza, solo miseria è in quella Tav. Tutti hanno quella Tav. Nessun cabalista, nessun santo fu mai liberato da quella Tav. Nemmeno Gesù. Era un grande rabbi, ma non era distaccato. Abbiamo anche imparato. Naturalmente devi avere intuizioni per capirlo, ma guarda a ciò che è scritto da qualche parte nel Vangelo. Cosa fece dopo aver predicato? Veniva dalla Giordania o da qualche parte e giunse sulla riva del fiume. Parlò lì alle masse, ha parlato spesso fuori dall'acqua. Sedette da qualche parte nell'acqua, in Binah, e parlò alle persone che erano sulla terra asciutta, Malkut de Malkut. Sedeva lì, era a una distanza nella Binah. Ecco un esempio per te dal Nuovo Testamento. Un altro esempio è che dopo un tale sermone che aveva dato alle masse, lui salì di nuovo sulla montagna per ricaricarsi. Andò dopo la predicazione alla montagna per pregare. Anch'io ne ho bisogno dall'interno. Dopo la lezione non posso parlare con mia moglie o con nessun altro. Anche se qualcuno viene qui, dico qualcosa con le mie labbra, ma il contatto è con la cima. Non devi affittare il tuo cuore fuori. Anche se ti racconto, ho sempre il contatto. Continuo sempre a suscitare dall'interno quel contatto con sopra, altrimenti non puoi darlo dall'esterno. Yeshua Gesù aveva anche detto che dopo un sermone andò a una montagna e andò a pregare. Pregare significa che ascenderà alla montagna, nei tuoi sfirot, nel disporre di nuovo di ottenere forze da Binah a te stesso e da Avi, padre e madre. Quando insegni, insegni sempre dalla tua Binah e mai dal tuo Tav. Anch'io mai ti mostro il mio Tav. Perché no? Cosa ti aiuterà? È il mio bagaglio, il lavoro che devo fare da me stesso. È assolutamente inutile, assolutamente sbagliato. Non mostri il tuo vero io? Qual è il mio vero io? il mio vero io è precisamente in connessione con Binah e non con la Tav, che non è il mio vero io. Naturalmente è vero che il vero sé di ognuno è Tav, ma non possiamo sventolare con quel Tav, non porta nulla di buono. Dobbiamo sempre iniziare con Yesod di Malkut e poi ci arrampichiamo. Netzach di Malkut, Hod di Malkut, Tiferet di Malkut. Gradualmente su, ma nel fondo di noi è Shin nelle lettere e negli Sfirot è Yesod di Malkut. In questo modo. È un'altra prova ciò che disse Gesù: farai opere più grandi di me? Certamente anche quello. Sarai in grado di fare miracoli più grandi di quelli che io ho fatto, certamente. Anche noi possiamo fare molte più meraviglie nel nostro tempo che nel tempo del Tempio, solo che non lo vediamo, non lo usiamo. Abbiamo tutto da usare, manca solo una cosa. Sistematicamente andare alla Shin, non finendo sotto la Shin. Devi renderlo chiaro a te stesso. Qualunque cosa venga in mente, miseria, non importa cosa. Che miseria avevano gli antenati di ogni nazione? Che miseria c'era lì per uccidere e così via? Quando leggo libri sacri non sento amarezza, solo amore. Zohar è stato scritto quando tutto il popolo è stato assassinato. I romani non solo crocifissero Gesù, ma tutti. Crocifissero anche i criminali, li bruciarono nella sinagoga. Ma ho sentito delle lamentele da qualche parte? Geremia si è lamentato di se stesso? Si lamentava delle persone che non seguono la via del Creatore. Tutti i profeti parlano di ciò che apprendiamo qui. Tutti i profeti non dicono altro che ammonire la gente di ascendere da Tav a Shin. Vai alla Shin, fai la Shin, la misericordia, la grazia, che diventa il tuo fondo. Riceverai allora ogni cosa. Non attirare Kochma per te, alla tua Tav, perché immediatamente è Schluss, chiuso. Abbiamo visto che la Tav è sigillata fino all'arrivo del Mashiach, è chiaro? Ogni cosa che viene in mente, se dico tu, intendo anche me stesso. Qualunque cosa accada, prima porta tutto alla Shin, a Yesod di Malkut, perché allora, in quel momento, tu sei recettivo alla luce, per quelle berachot, benedizioni. Lascia riposare quella situazione. Prima vai da Yesod di Binah, grazia in te stesso. Ti rendi più basso, non con la forza, perché ciò non risolve nulla. È un sentimento pesante, turbolento, ma non ne esci. L'unico modo è venire a Yesod di Malkut, per accorciarti, allora ricevi la salvezza, e l'area tra Shin e Tav è anche illuminata in modo coperto. Non devi attirare la luce. Non devi attirare la luce da Shin a Tav. Non dovresti toccare quell'area. Devi imparare dov'è con te stesso. Quella è l'area che è assolutamente inaccessibile. Se attiri lì la luce Kochma, quello è un peccato. Che tipo di peccato è quello? Allora ricevi qualcosa per te stesso che porta oscurità, miseria, esperienza di solitudine. È la tua immaginazione della realtà. È importante che tu pensi che è realtà e che non lo è. Ecco di cosa si tratta, capisci? Pensi, quella è la realtà, quella la miseria. Mi hanno fatto quello a me, il mondo è cattivo, il creatore è cattivo. È grazie a te. Perché? Se qualcosa come quello che ti viene in mente significa che sei sceso tra Shin e Tav o al Tav stesso, allora devi immediatamente chiamare dall'interno e fermare quello che stai facendo. Forse stai seduto da qualche parte per lungo tempo, qualche ora, è comodo con le persone e non senti più la forza. Quindi si finisce nella Tav o nelle vicinanze della Tav. Cosa fare con quello? Prima di venire a terra con la schiena, devi prendere delle misure. Devi riconoscere i segnali. Capisci cosa intendo? Andiamo oltre, ancora oltre, andiamo in un altro bar. In qualche modo, una scusa o qualunque cosa tu faccia, vattene. Ti sei divertito un po' per il tuo sa, il tuo potere impuro, un po' parlato qua e là, ed è abbastanza. Nessuno lo vede e tu sei scappato. Il tuo fondo è Yesod di Malkut. Questa era un'introduzione e ora vedremo di cosa si tratta. E pertanto da questa fine, nuova finale Shin, è chiamato il punto centrale della sede della vita, poiché tutta la sede del mondo è venuta da quella fine. Ogni cosa che è buona nel mondo, ogni cosa che è costruita nel mondo, viene da questo posto. Capisci? Posso assicurarti che tutto il bene nel nostro mondo, anche se non è fatto per il bene del Creatore, proviene da questo luogo. Tutti i premi Nobel, ovviamente non per il bene del Creatore, ma per il loro proprio bene, tuttavia questo posto è usato. Ogni cosa che irradia la vita, anche nel nostro mondo, deriva da questo posto, la Shin. Certo che puoi abusarne, le forze impure possono attingere da quella. E così, non è male, lo vedremo. Un po' chiaro di cosa si tratta? È molto importante di cosa stiamo parlando ora. Cerca di concentrarti, non aver paura di scendere. Ognuno di voi può sentire dov'è la Tav e dov'è la Shin. Sempre più lo sperimenterai. Ognuno ha il suo proprio posto. Ovviamente corrisponde l'uno all'altro, ma ognuno ha il suo proprio posto. Tutta l'intenzione è che lo impariamo. Ma tu impari la tua Shin e io sperimento la mia Shin. Ognuno ha la sua Shin, la sua propria Shin. La struttura è la stessa, ma il colore è diverso. Altre relazioni rispetto alla radice nello spirituale e nel ramo. E quello è anche chiamato nel nome di Yesod di Nukva o Yesod di Malkut, è lo stesso. Se ci sono già 10 sfirot di Malkut, la chiamiamo Malkut, e se non ci sono ancora 10 sfirot, non è ancora ben costruita, la chiamiamo Nukva. L'abbiamo imparato, o diciamo che è Yesod di Malkut, o diciamo il punto centrale della sede del mondo. È lo stesso, solo che è cabalistico e contemplativo. E da qui, quindi, la lettera Shin è chiamata la lettera della verità, proprio come Tav. Ce lo dirà presto, ed è anche chiamato il timbro del re, proprio come nel caso della lettera Tav. Tav è anche la fine è il sigillo dell'anello del re. anche qui è la fine, quindi qualcosa in comune con Tav. Ce lo dirà lui stesso, perché la parola timbro, stampo, ha molti significati. Il primo significato di timbro, stampo, è che apprende dalla fine del parzuf. Più profondo prendiamo nel nostro io interiore, più in alto possiamo riflettere, comprendere. Dobbiamo sempre avere una fine, cercare di affrontare il più a fondo possibile. Dice che il timbro stampo è la fine di un parzuf, proprio come Tav, che è la fine di tutte le 22 lettere. Egli fa un esempio, come il timbro del re. Mette un timbro e la sua firma, ad esempio su un regolamento, che viene alla fine della sua scrittura, di un regolamento o giù di lì. Quello è un significato di Chotam, timbro. Lo collega alla lettera Shin, che è stato scritto nel nome del re. Ci dà un'immagine che possiamo sentire un po' di cosa si tratta. Quindi, se una lettera o un regolamento è scritto per conto del re, alla fine della lettera apparirà un timbro nel nome del re. Qualche giorno fa abbiamo ricevuto una lettera ordinaria inviata a tutti ad Amsterdam, un pezzo di carta, una lettera dal comune firmata Cohen, sindaco di Amsterdam. Lui non l'ha nemmeno visto, ma la sua firma è sotto di esso, quindi è nel suo nome. Così anche nel nome del re è sigillato. E il secondo significato di Chotam, timbro, è perché il timbro del re è come il re stesso. Tutti guardano l'ordinanza e sentono come se fosse il re stesso. Ci farà sentire grado dopo grado quello che sta dicendo. Come scritto nel Tikkunim, dallo Zohar, esiste un tipo di libro dove è spiegato qualcosa. Uno ha soggezione del timbro del re come se fosse il re stesso. Passiamo ora sulla seconda parte della lezione. Ancora, lo Zohar non è difficile. Tutti pensano che sia un ostacolo. Possono imparare tutto, ma non lo Zohar, mentre non è affatto difficile. Il problema è che proviamo con la testa, perseveriamo, vinciamo, regniamo invece di servire. Cerca di avere l'attitudine di servire. Riceverai allora ogni cosa. Le stelle del cielo, il massimo, la crema della crema. Non hai bisogno di nulla, ma devi solo imparare ad essere di servizio. Abbiamo bisogno di servitù, è facile. Zohar ti sarà rivelato e non farai errori. Naturalmente ne abbiamo sempre errori, ma non intendo errori grossolani. Sarai condotto dallo Spirito Santo dentro di te, con assoluta certezza che lo sperimenterai quotidianamente. Non hai quella santità che sperimenterai ogni cosa e sarai guidato, sentirai di essere guidato, del tutto pubblico, non nei tuoi sogni ma durante il giorno. Abbiamo detto che il timbro del re è per conto del re ed è proprio come il re. E per questa ragione il timbro è chiamata lettera o segno di verità. La lettera Shin come nuova finale è anche il timbro sigillo e come tale è anche la verità. Proprio come il re mette il suo nome alla fine di una lettera, che è la verità ed è pronta. Così è anche la Shin, Emet, verità. Anche se Emet non finisce su Shin ma su Tav. La vera Emet è Tav, ma Shin è anche Emet perché è anche la fine di un parzuf, diciamo la fine di una lettera. Durante la pausa è stato molto interessante qui. Qualcuno mi ha detto qualcosa che è grandioso. Vedi che funziona negli umani. La relazione con ciò che facciamo esiste già. Ha detto che sulla mezuzah, tipo un tubo che abbiamo sulla porta con le parole della Torah, è anche rappresentata la lettera Shin. Mi ha chiesto se ha qualche connessione con quello. Sì, è assolutamente correlato a quello. Una nuova dimensione di ciò che abbiamo imparato ora. Perché cosa è scritto? La lettera Shin è su quel tubo e anche se lo apri è lì. Significa agli avamposti della tua Bait, casa, impareremo che Bait, casa, è Nukva. La moglie di un uomo è anche chiamata Bait. Bait, Bait. Per un uomo, sua moglie è la sua casa. Cosa significa ciò? Ora sappiamo che è Nukva. La fine di un uomo è sua moglie in te stesso. La tua Nukva è un elemento femminile. Corrisponde anche a una donna dall'esterno. La lettera deve essere appesa sulla porta. La casa è qualcosa dove è la vita, dove il frutto è prodotto, dove è la gioia. Quella è anche Nukva nella sua nuova fine. Non finire su Tav, perché poi non è una Bait. Vedremo come sarà, il deserto o altre cose. Bait è la Nukva che termina con Shin. Ciò è perché la lettera Shin è sugli stipiti. Quello è il significato più profondo di quella mezuzah che viene sugli stipiti. Cosa significa? Questo significa che prima di poter entrare in casa, prima di voler costruire la tua casa, devi fare qualcosa. Devi fare la tua fine sulla Shin e non sulla Tav. La tua casa e te stesso dovrebbero essere basati sulla Shin, sulla misericordia e non su quella Tav. Questo è cosa si è detto. C'è anche una prescrizione, guarda attentamente, che quella mezuzah, quel tubo, dovrebbe essere appeso sul lato destro e non sulla sinistra, quindi sul lato di Chassadim, misericordia. È sempre appesa sulla destra. È anche scritto che lei, due terzi da sotto, un terzo dalla cima dello stipite, tre terzi, è l'intero parzuf, quindi deve essere in un posto vicino alla Binah. E perché sulla destra? Perché la destra è Chassadim. Devi sempre avere Chesed, grazia. Allora vieni ai cancelli della tua porta, guarda la porta e vedi. Due terzi da sotto o un terzo da sopra è Keter, Chokhmah, Binah. Quindi effettivamente Malkut di Binah, da cui proviene tutto il bene nel tuo corpo. Quella sarà la tua fine e con quella costruirai la tua casa. Tutta quella luce che splende da quella Shin, dal tuo atteggiamento che sei basato su quella Shin, tutta la luce proviene da Binah. Quindi devi apprendere la mezuzah un terzo dall'alto e così entri nella casa, la sede della vita. Su ogni stipite, anche all'interno, tranne il bagno, la toilette, ovunque tu vivi. Non vivi nel tuo bagno o, ad esempio, in un ripostiglio. Solo dove vivi, salotto, stanza di studio, ognuna di quelle stanze che devi fornire con un tale tubo. Ora sappiamo cosa significa, che tu sempre lo interiorizzi. È consuetudine che un ebreo tocchi la mezuzah con la mano destra e se la porta alle labbra, la bacia. E cosa faccio? Mi porto dalla mia malchut a Binah. La mia mano destra significa Chesed. Le mani sono Chesed e Gvura. Chesed è la mano destra e Gvura è la mano sinistra. Porto la mia mano alla Binah. Faccio il mio man, preghiera alla mezuzah, e con il dito ho un accordo conforme alle qualità. È chiaro? Se un inferiore viene a un superiore, diventa come il superiore. Metto la mia mano sopra e con la mia mano, dito, ho una corrispondenza con Binah, per così dire. Ora lo abbasso di nuovo. La luce di Binah l'ottengo alla mia bocca, in altre parole la mia Binah da sopra. Sugli stipiti della porta rappresenta la Binah di Azilut e la prendo dalla cima alla mia bocca. Quella è la mia Binah. Viene da bocca a bocca, perché tutto deve corrispondere in termini di proprietà. La luce è sempre trasmessa dagli stessi elementi. Keter dà a Keter, ma ovviamente attraversa tutti gli altri. Tocco la Binah, la metto sulla mia bocca e bacio. Baciare significa anche zivug. Esistono due forme di zivug, lo impareremo. È stata un'ottima domanda. Quella connessione è ciò che conta nel nostro studio. Che vedi quelle connessioni, fare connessioni. Inoltre, non spiegherò come ora, ma un po'. Devi chiedere tu stesso il resto e ovviamente ricevi la risposta. Quindi vedrai che ogni cosa nel giudaismo, quel tipo di cose che si appende sul muro o qualcosa del genere, tutto funziona in conformità alle leggi dell'universo e non della tradizione. Naturalmente, ogni cosa deve esistere nel modo in cui lo fanno, come mettere quelle scatole sulla fronte. È assolutamente spirituale e potente. Se lo metti sulla fronte e sai in che modo quello viene. C'è anche una shin, sì, anche quella scatola che hai messo sulla fronte, ha anche una shin sopra, ma in una forma diversa. Hai anche, ad esempio, una shin con quattro teste. Guarderemo oltre, è davvero bello quello che ci dice. Ogni verità è riconosciuta all'interno del timbro. Che cosa significa? Su dove sei basato ci sono le tue verità, sul timbro le vere relazioni, la vera essenza è riconosciuta, così nel basso su cui è basata una persona spirituale, il fondamento che è sotto l'uomo o nello spirituale. Su cui è basato il fondamento c'è la verità per essere riconosciuta. Un po' chiaro? Proprio come una lettera da un re che è sigillato alla fine, un timbro con la sua firma, e tutti vedono che è la vera lettera del re. Un inviato va a un altro inviato, dichiarano guerra, versano sangue, e improvvisamente vedono una lettera dal re. Non vedono il re stesso, ma la sua lettera sulla quale firma e il sigillo, un'impronta del suo anello con sigillo e all'improvviso dicono: «Fermati, smetti di sparare, non verseremo più sangue». È come se il re stesso fosse stato lì. Voleva dire, spiritualmente ci dà il sentimento, che nel sigillo, il pezzo finale del parzuf, c'è la verità, proprio come la lettera Tav. E ora abbiamo un'altra fine, Shin. Non è la vera Tav, la vera fine, ma è la fine. Ce lo chiarirà ulteriormente. Ci ha dato la somiglianza tra Tav e Shin. Ha detto che Tav è l'ultima lettera e il sigillo del re. E Shin è lo stesso. Quello è ciò che la Shin ha in comune con Tav. Che Shin è anche la fine. È una lettera più corta, ma finisce. Ha anche a che fare con Emet. In quanto tale, a questo proposito, sono uguali. Tuttavia, la proprietà superiore, alta qualità specifica, maggiore vantaggio di Shin, è superiore a Tav, perché la lettera Shin è menzionata nel segreto del nome Shaddai. Questo è anche un nome del creatore che trasmette il potere onnipotente. Shin è l'inizio del nome Shaddai, onnipotente. Il significato di esso, dal nome Shaddai, onnipotente. In ogni altra lingua hai solo onnipotente. Che cosa porta? Tutto tradotto dall'ebraico, la lingua santa. Guarda cos'è tutto. Senza l'ebraico non possiamo capire. Che cosa significa il nome, il potere Shaddai? Che egli ha detto a suo mondo che è abbastanza. Dai abbastanza. Shi che, per dire fino a qui e non oltre, devi avere l'onnipotenza. E non diffondere ulteriormente. Questo è il nome onnipotente. Shaddai è come è completamente pronunciato, ma poi vibro perché so cosa è tutto. Shaddai, She, Dai, esso è abbastanza. Fino a qui non oltre. Vedi cos'altro dice. Qual è di esso l'onnipotenza? Ora possiamo assaggiarlo, ecco di cosa si tratta, che possiamo assaggiarlo. Abbiamo detto che Dai, che è abbastanza, diffondersi fin qui e non oltre, è chiaro? E ci insegna la costruzione del mondo. Il mondo deve essere costruito con la sede, punto centrale, che finisce solo su Shin. E ciò quello che il creatore voleva dire. Onnipotente, nella lingua santa onnipotente, significa Shaddai, che dai, quello è abbastanza. Lui ci dice che quello significa qual è l'onnipotenza di esso. Ha detto il mondo deve finire a Shin e non a Tav. Intendeva il mondo come la sede della vita dove finire in Shin e non sulla Tav. Ancora una volta, la sede della vita deve essere Shin. Ecco perché il potere di questo nome è anche in Shaddai. Se senti che stai arrivando più in profondità della Shin, chiama questo nome, ma sappi cosa stai facendo. Quando vieni nella miseria, la miseria non viene dall'esterno, solo da te viene la miseria. Devi sapere bene che la miseria viene solo attraverso la tua percezione. Lo vedi come sofferenza. Ogni cosa è buona. La miseria viene perché si sperimenta l'oscurità venendo sotto quella Shin. Vai sotto quella Shin, tu senti di sentirti infelice. Non devi sempre fuggire perché a volte è buono. ma potresti non sentirti a tuo agio. Non sentirsi a proprio agio quando si è basato sulla Shin non è un confortevole modo costruttivo. Ora abbiamo un po' di definizione. Se non ti senti bene dove senti di essere sotto la Shin, ricevi per te stesso il risultato di ricevere per te stesso. Malkut de Malkut. Quello non è corretto. Devi fare qualcosa su quello subito, desiderandolo, chiedendo al creatore di salire e partendo dalla Shin. Prima vieni a proprio come lo stipite della porta che devi prima passare. Devi entrare nella casa, che significa dove è la vita. Dal deserto, dal campo, vieni nella casa. Ecco perché Yaakov era anche chiamato abitante di tende. Puoi costruire da una Shin in una tenda. Esav era chiamato l'uomo del campo. Nel campo non hai confini, né a destra né a sinistra. Era illimitato. Si portò alla Tav. Voleva ogni cosa che vedeva. Ciò che vedeva con gli occhi lo voleva avere. Mentre noi possiamo solo andare alla Shin e non oltre, perché solo da quello puoi costruire la casa, eccetera. Esattamente lo stesso. Forse qualcuno ha imparato che quando ci furono problemi in Egitto, un nuovo faraone salì, impareremo tutto ciò con Pesach. Un nuovo faraone arrivò in Egitto e diede l'ordine di gettare i bambini ebrei nati dentro il Nilo. Non femmine, ma maschi ebrei. Due ostetriche non avevano casa perché non l'avevano fatto. Per il bene che avevano fatto, di risparmiare quei bambini, più ragazzi erano nati e quando il faraone li chiamò e chiese loro cosa stesse succedendo, dissero che è diverso con le donne ebree. Sono proprio come animali, che fanno bambini come la catena di montaggio. Avevano già partorito prima dei 9 mesi. Eravamo arrivati in ritardo. Nella Torah si dice che perché hanno agito così, sono stati costruiti, ottenuto case, famiglia e tutto, umanamente parlando. Significa che siamo stati costruiti. Ci sono anche molte cose qui, che vengono passo dopo passo. Io non voglio qui. Puoi costruire la tua Bait solo quando sei basato sulla Shin. Perché? Perché il nome del creatore finisce lì. Naturalmente arriva ovunque, anche nelle forze impure, perché dice che il creatore è ovunque, sopra e sotto. Il creatore è anche con le forze impure, ma la sede dell'uomo inizia con una casa e la casa inizia con la Shin, che è l'onnipotenza del creatore. Quando vieni sotto la Shin nei tuoi sentimenti, allora devi chiamare questo nome da tutto il tuo cuore. Shaddai, pronuncialo con Dalet, invocalo in cui ti orienti dall'interno che vuoi essere portato alla Shin, perché lì hai di nuovo la vita. Hai sempre la vita da Shin. Tutta l'intenzione è quella di chiamarla sempre. Ogni giorno sembra che sia un pozzo infinito. E non è così. Credi e confida che è ogni giorno di nuovo. Certo, vieni di nuovo alla tua Tav, ma quello è su un livello completamente diverso. Sembra la stessa Tav, ma è tutt'altro. Ricordo come sei venuto qui la prima volta. Ognuno aveva la sua Tav diversa da ora, incluso me. Ogni volta che andiamo sempre più in profondità, ogni volta in modo diverso, molto più veloce e più vicino alla nostra realizzazione. ci dice che il nome Shaddai ci insegna che il mondo è costruito e la sede termina solo con la Shin e non con la Tav. Quello è il vantaggio della lettera Shin rispetto alla Tav. Tav non ce l'ha. Shin si riferisce al nome di Onnipotente. Vedremo anche che questo nome Shaddai proviene da Yesod del mondo superiore. Se vogliamo anche onnipotenza dentro noi stessi, riguardo al nostro sistema, al nostro corpo, al nostro cattivo principio, se vogliamo il meglio del meglio, allora dobbiamo anche avere l'accordo con il nostro Yesod, con Yesod del superiore, ottenere le stesse qualità come Shaddai, ma in noi stessi. Costruire una relazione con Shaddai e Shaddai e Yesod nei mondi superiori. Solo attraverso il nostro Yesod possiamo chiamare il nome di Shaddai, chiaro? Perché? Combacia alle proprietà nello spirituale, ad esempio in Azilut. Shaddai è Yesod e Shaddai può essere chiamato dal tuo Yesod. Ciò pulisce notevolmente l'essere umano e ti costruisce. Che il nome Shaddai ci insegna che in questo nome la luce è venuta a Yesod di Malkut. E lui disse al mondo, e ora basta. Quello è il nome del creatore. Shaddai è il nome che lavora, dove governa a Yesod la Malkut. Quello è il posto dove si può costruire la casa, Malkut. Proprio come Zerampin in Azilut costruisce Malkut. Proprio così costruiamo la nostra Malkut su questo. Come? Guarda bene, Yesod è sopra la Malkut. Se uniamo le forze per accordarci con Yesod in un mondo superiore, cosa facciamo con quello? Lentamente, cerca di concentrarti. È assolutamente il più profondo del più profondo. Se lavoriamo dentro noi stessi per venire a Yesod di Malkut, che ha davvero poteri di Yesod, allora siamo anche d'accordo su qualche parte con Yesod e ovunque, Yesod di Azilut, anche se non siamo ancora pronti, perché Yesod è Yesod ovunque tu sei. Abbiamo una certa radiazione da Yesod di Azilut, e che è Zerampin, solo la sesta, l'ultima, la più bassa sfirà di Yesod. Zerampin ha 6 sfirot. Con quale sfirà Zerampin dà luce a Malkut? Dalla sfirà Yesod. Quindi, se mi faccio strada fino a Yesod di Malkut, allora ho una relazione con Yesod, la Malkut di Azilut. Anche se non ho raggiunto quel punto, ma c'è sempre una corrispondenza con la proprietà e la radiazione arriva sempre. Cosa succede allora? Yesod di Azilut, con cui ho avuto contatto, perché l'ho portato su come Man, facendomi lavorare fino a Yesod di Malkut. Man sale e arriva a Ein Sof e ritorna come acque maschili e arriva a Yesod da Azilut. Chiaro? Yesod allora dà a Malkut di Azilut. Allora lo zivug è fatto tra Yesod e Malkut di Azilut. Da quello viene la luce Kochmah, da cui ne viene la salvezza. Così anche per me di svegliarmi dal basso a Yesod di Malkut. Sono d'accordo in termini di qualità con Yesod anche nel superiore, anche se non lo sento. Non importa cosa sento, mi attaccherò a Yesod, alla grazia e non a Shin. Allora creo con quel piccolo movimento che faccio, niente altro aiuta, che Yesod alla fine è portato su Ein Sof. e da lì arriva Yesod, la luce dall'alto, in risposta alla mia preghiera, alla mia azione, al mio movimento verso l'alto. E Yesod dà allora a quella Malkut di Azilut, e c'è la salvezza, ecco da dove viene la luce. Cosa accadrà? Yesod di Azilut che dà a Malkut, che significa che hanno Zivug, hanno confluenza l'uno con l'altro in Azilut. Con la mia piccola azione causo lo Zivug confluenza in Azilut tra Zeirampin e Malkut. Tutto quello viene da me, perché una persona inferiore che causa qualcosa in una superiore lo tiene anche per sé. Se porto qualcosa di buono nel superiore, allora tutto il bene che produco lo causa anche nel superiore e va anche a me. Questo è un principio. Zeirampin e Malkut si fondono tra loro. Azilut è il mondo di Kochma, e da quello viene la luce Kochma in Chassadim a me attraverso tutti quei mondi. Azilut, Bria, Yetzirah, Asiya, dove sono io? Forse sono a Bria in quel momento. Quando sono in preghiera, ad esempio quando sono in piedi in preghiera, una persona viene a sperimentare Azilut. E se faccio semplicemente qualcosa, forse posso essere in Asiya. Non importa. Otteniamo tutta la salvezza attraverso Azilut. Quello viene a me, per accordo con le proprietà, Yesod di Malkut. Yesod di Malkut è la mia finale, è Shin. Inoltre non va giù. Naturalmente purifica anche qualcosa dal basso, ma non che io stesso, sotto la Shin, debba fare qualcosa riguardo ad essa. Non devi arrivarci. La luce stessa deve fare ciò che vuole lì. Non devi giocare al boss lì. Quella è la miseria dell'uomo, che vogliamo essere ovunque, anche tra la Shin e la Tav, perché ci sono forze gigantesche, un luogo attraente, perché lì confina con infinita perfezione, eternità, assoluta perfezione. Ovviamente vogliamo andare lì, restare lì, ma devi sapere che quello non è il modo. La strada è la Shin. Il creatore ha detto Shedai, Shaddai, fino a qui e non oltre. Il resto lo fa la luce stessa. La luce ritorna da me. Per dove? Per Yesod di Malkut e non a Malkut de Malkut. Quello non è più il mio lavoro. Viene Yesod di Malkut e ovviamente ci sono anche delle goccioline, ma non da parte mia, ma gocciola come era tra la Shin e la Tav. Ogni volta che faccio correzioni con l'estremità di Shin, ci sono naturalmente delle gocce che cadono tra la Shin e Tav. Ecco perché sono purificati. Proprio come in una reazione chimica, fai cadere una sostanza viscosa sporca, non so come si chiama. Ero anche bravo in chimica, ma goccia a goccia e improvvisamente non è più così viscoso. Diventa fluido, più chiaro, più puro. Non è per noi fare ciò nello spirituale. Solo Shin e non oltre. Non devi permettere a nessuno di portarti sotto la Shin. Se ti arrabbi, ti lasci trasportare sotto la Shin. Se ti infastidisci, non è male. Può venire fisicamente attraverso l'udito, che è troppo rumoroso, eccetera. C'è irritazione, ma quello che fai con esso è qualcos'altro. L'irritazione è il tuo essere umano esterno, ma dentro di te non deve essere portato via sotto la Shin. È chiaro? Il creatore ha detto Shedai è abbastanza, fino qui e non oltre. Il creatore ha detto al suo mondo, e ne facciamo parte, dai, abbastanza, a qui e non oltre, a Yesod di Malkut, e non oltre. È grandioso, non è solo Zerampin, ma ci sono anche 9 Sfirot di Malkut per sperimentare. Abbiamo 9 Sfirot generali, Keter, Kokhmah, Binah, Chesed, Gvura, eccetera, più 9 Sfirot di Malkut. Ma Malkut de Malkut non la tocca. Quello era il problema di Adam numero 1. Certo che non voleva sbagliare con quello, ma pensava come noi regolarmente. Ah, se avrò quel piacere, godimento, sotto la Shin e ottengo la Tav, quella sarà la fine del mondo, piacere eterno. Tramite forze impure. Sa, siamo sedotti a fare così. Siamo ingannati ogni volta. All'inizio pensò che stava facendo bene, facendolo per buoni motivi, ma lei diede a lui un altro posto. Una volta puoi sbagliare, lasciarti tentare. Sua moglie, Chavah, Eva, gli ha dato da mangiare e lui mangiò dell'albero del bene e del male. Significano ovviamente Malkut de Malkut, lo vedremo. Lui lo mangiò e immediatamente vide che era caduto. Si nascosero immediatamente da qualche parte nei cespugli. Provarono immediatamente vergogna, ma lo fecero ancora e ancora. La seconda volta, ovviamente, era sbagliato. Una volta è abbastanza. La seconda volta, Shaddai disse al suo mondo che il mondo doveva venire a Shin e non oltre, e non diffonderlo all'aspetto di Tav. Finché Tav non è permesso a essere distribuito, è grandioso che lo sappiamo già, che lo stiamo trattando con cura. È necessaria cautela, non la paura o tutte le altre cose che la gente vuole instillare in te, ma attenzione perché è la tua vita. Paura di Hashem, non permettere alla luce di diffondersi sotto la Shin, di ricevere. Quella è tutta la paura. La paura non è altro che amici miei. Solo di non ricevere la luce sotto la Shin devi temere ciò. Quella è la paura di Hashem. Non c'è altra paura. Quella è una buona paura. L'uomo non è nato con essa. La colonna successiva contiene cose sorprendenti che tutti impareremo. La paura di Hashem non era necessaria, ma la paura è venuta attraverso il peccato di Adam. Non dobbiamo temere nessuno. Ogni cosa l'uomo teme. Gli animali non potevano mai attaccare gli esseri umani. Gli animali attaccano perché abbiamo peccato. Epidemie. Il mondo non è stato creato in questo modo. Il mondo era Din e Rachamim, Chassadim e Gvurot. Entrambe le forze sono sacre, ma ciò che fluiva da quello è qualcos'altro. E quello è il perché il punto finale di Shin è chiamato il punto centrale della sede della vita, del mondo. Quello è il punto centrale. Anche noi con quello deve essere il punto centrale in ciascuna delle tue situazioni. Non che tu dica, va bene, da oggi è il mio punto centrale. Alzati domani, la sveglia suona e dici, ieri avevo deciso, ma ora è diverso, perché sei in uno stato diverso. Devi mettere la Shin di nuovo come punto centrale del tuo mondo. Ecco di cosa si tratta. Quando senti il mondo, devi prima capire che quello è circa la tua esperienza del tuo mondo, come lo costruisci dentro te stesso. Ricordalo molto bene. Non abbiamo nulla a che fare con il mondo esterno. Non puoi mai conoscere il mondo esterno senza costruire il mondo in termini di caratteristiche nel tuo cuore, nei tuoi desideri. I tuoi desideri sono i mondi. La direzione che dai ai tuoi desideri è il tuo mondo. Il tuo mondo non è ciò che è all'esterno di te. Certo che hai cose da fare all'esterno, ma il mondo andrai male, intendo, da un miraggio a un altro miraggio, e ciò non raggiungerà nulla. Il dolore, eccetera, ovviamente, anche la sofferenza porta a un miglioramento. Cerca di capire che è tutto sui desideri nel tuo cuore. Nel tuo cuore costruisci il mondo e di conseguenza sperimenterai il mondo. E non che tu aderisca al mondo, che il mondo ti faccia sentire triste o infelice, che tu sperimenti inutili sofferenze dall'esterno che non ti riguardano affatto. Cerca di capire che è tutto sui desideri nel tuo cuore. Nel tuo cuore costruisci il mondo e di conseguenza sperimenterai il mondo. E non che tu aderisci al mondo, che il mondo ti fa sentire triste o infelice, che tu sperimenti inutili sofferenze dall'esterno che non ti riguardano. Capisci cosa intendo? È solo nel tuo cuore, il centro epico della tua percezione, che tutto il mondo è lì e da ciò puoi vedere e sperimentare il mondo intero. E non il contrario. Il nostro potere impuro ci tira fuori, deve venire solo dall'interno e non altrimenti. E questo è anche l'argomento o requisito della lettera Shin. È bene per te creare il mondo da me, perché in me, dice la lettera Shin, il tuo nome è chiamato Shaddai Onnipotente. Perché dopo che la lettera Tav è stata respinta a causa della sua pesante din che era in lei, la lettera Shin pensava a se stessa che il creatore preferiva la sua capacità di creare il mondo con essa, perché ha tutte le eccezionali qualità della lettera Tav, perché anche lei, le lettere sono femminili, il timbro del re, perché è l'ultima, e anche lei è la lettera di verità. Abbiamo detto che la verità è il timbro del re, e anche lei è il timbro. Ora arriva di più. Lei ha detto che è come la lettera Tav, ha anche tutte le qualità eccezionali della lettera Tav. E lei ha una qualità extra speciale di lei, perché in lei il nome Shaddai è stato chiamato, perché era stata scelta per la fine della Nukva nell'aspetto di sede per il mondo, come abbiamo imparato, e non la lettera Tav. È chiaro? Da un lato le stesse proprietà come la Tav, dall'altro viene scelta per essere una nuova fine in cui il mondo può essere fondato e ricevere ogni cosa, e non la lettera Tav. Perciò trovò il potere in se stessa di venire davanti al volto del creatore. Lei aveva argomenti per questo, che lui creerà il mondo con il suo attributo. Quello era il suo argomento, la sua forza era che lei era la sede, il fondamento del mondo. Per chi è cresciuto nel mondo cristiano, può anche dire che Gesù ha detto: io sono il fondamento di tutto. Puoi vederlo anche nella tua religione, è chiaro? Io sono il fondamento. Per un cristiano quello è. Lì puoi anche vedere l'uomo, il fondamento. Qual è il fondamento di Cristo Gesù? Io uso il nome Yeshua, allora lo sento. Gli altri nomi sono traduzioni. Cristo non mi dice nulla, Gesù non mi dice nulla. Queste sono traduzioni dal greco. Yeshua sì, che è il liberatore. Perché dice io sono il fondamento del mondo? Si è costruito attraverso la semplicità e attraverso la qualità della grazia. La grazia non è altro che quello che ha costruito su Yesod di Malkut, chiaro? Sulla misericordia. Ecco perché dice io sono il fondamento. Il mondo non conosceva la misericordia. Fu rivelato dagli ebrei, da Abramo e altri. L'hanno portato al mondo. Il mondo conosceva il nome Elohim, il rigoroso maestro, ma il mondo non conosceva la misericordia. È dato agli ebrei, quindi, se quello un ebreo non lo fa, è una sfortuna per le forze. Il lavoro degli ebrei è per quella grazia, non un'apparente bontà, nessuna bontà da parte nostra, per portare quella qui, misericordia terrena, per base sulla Shin, chiaro? In questo modo sperimenterai anche la tua propria fede in un modo più fine. Non bla bla, ma sentirai qual è la tua fede. Lui era basato sugli Yesod di Malkut. Ha anche detto, vieni da me perché sono gentile. Soffice significa che non esco da Tav. Din dura, vieni da me agli Yesod di Malkut e sarai salvato. In quel modo impari un po' che non è ebreo, cristiano, musulmano. Abbiamo un mondo e parlano tutti della stessa cosa. Solo agli ebrei sono state date le cose più interiori. Succede assolutamente con il cristianesimo, non è diverso. Abbiamo un solo maestro, nient'altro. Basati solo su Yesod di Malkut, è tutto. Gli ebrei hanno il loro compito, hanno un extra perché sono più vicini al Creatore. Devono anche purificarsi in modo maggiore, più pesante, e trasmetterlo agli altri. No, lui è questo ed è quello. Non c'è differenza tra noi. C'è solo un caleidoscopio di forze. Il Creatore non voleva che il mondo intero fosse ebreo, ma un caleidoscopio di poteri. Tutto è necessario. Devi solo imparare a non andare da Yesod a Malkut de Malkut, perché quello è pagano. Se ti basi su Yesod della Malkut, hai raggiunto ogni cosa. Questo è il punto di partenza per il bene. Ora vedi qual è la risposta del Creatore. Diremmo alla grande, perché non creare il mondo da lei? Così grande che lei si chiama Shaddai, fino a qui e non oltre. E tu hai Emet, verità, hai tutto qui. Lei ha le qualità migliori. Guarda cosa risponde il Creatore, la saggezza divina. Il Santo Uno, benedetto lui è, ha risposto alla lettera Shin, nonostante il fatto che la tua eccezionale qualità è molto grande, come tu dici, proprio per questa ragione l'opposto di te nella Klipa, potere impuro, è anche enorme, anche più forte. Abbiamo imparato che ci sono due sistemi di forze, destra e sinistra. Quindi se c'è più santità, la lettera Shin ha delle belle qualità. Quindi il Creatore dice che il tuo miglior attributo con il quale pensi di essere idoneo a consentire attraverso di te di creare il mondo, quello è precisamente il tuo meno. Perché? Pertanto anche il contrario, il lato della Klipa, potere impuro, non è una parola buona. Ricorda, Klipa, involucro, guscio, diventa più forte anche lì. Sta andando a dirci qualcosa di straordinario ora, come viene. Ecco perché ne abbiamo parlato all'inizio della lezione. Non devi pensare di essere redento, di essere nel nirvana. Più andiamo in alto, più usiamo anche forze impure. Non è che noi, anche noi, finiamo nei poteri impuri, ma non nel modo in cui veniamo dalla Shin a Tav. Non devi arrivare tra la Shin e Tav e iniziare a lavorare su te stesso lì. Nulla di buono verrà da lì. Non puoi trovare nulla di buono lì e nessuna salvezza. Solo basandosi sugli Esod della Malkut è possibile, come le goccioline che vengono tra la Shin e la Tav. Ci ha detto qualcosa e con ciò probabilmente finiremo, perché poi lì ci sarà un grande argomento in cui avremo bisogno di nuovi poteri per ascoltarlo e gestirlo. L'argomento è chiaro. Lei pensava che fosse il suo lato forte, che era abbastanza. Lui disse: no, è precisamente per la tua forza che non posso permetterti di creare il mondo attraverso di te. Perché? Perché l'altro lato della moneta, il lato del Sa, è anche rafforzato, perché entrambi sono sempre uno di fronte all'altro. Sei forte e lei è forte, quindi non posso permettere al mondo di essere creato da qualcosa che non sarà duraturo. Il mondo deve essere duraturo. Se usciamo da questa affermazione che il creatore ha cercato la lettera che avrebbe reso il mondo duraturo, costruiamo il nostro mondo, nient'altro. Non guardare fuori. Quando costruisco il mio proprio mondo, costruisco il mondo. Anche noi dobbiamo assicurarci che dentro di noi siamo basati su quella lettera, su quelle forze che possono rendere il nostro mondo assolutamente duraturo, proprio come la Torah, proprio come questo mondo, il mondo creato dalla Torah. Chiaro? Quella è la lettera Bet, perché la Bet è Berakah, benedizione. Le benedizioni non hanno controparte nelle forze impure. Benedizioni che possiamo tirare da Yesod. Basarci su Yesod e poi venire le benedizioni, corrispondenti a Yesod e Malkut di Azilut. E da quello tutte le benedizioni ci arrivano.